Italia in controluce. Buongiorno a tutti da Daniele Biacchesi in conduzione per Italia in controluce. Oggi è il 19 ottobre, venerdì. Tutto è partito da un titolo del quotidiano La Repubblica: il CSM boccia il DDL anticorruzione. Era scritto oggi ed è ancora scritto sul sito di Repubblica: un passo indietro incoerente. In realtà poco fa il vicepresidente del CSM Michele Vietti ha criticato il DDL anticorruzione, anche se alla fine annuncia lo approveremo. Sentiamo Michele Vietti. Il governo e il Parlamento hanno certamente fatto un buon lavoro e chiunque pensa di utilizzare il Consiglio per metterlo in discussione ha sbagliato indirizzo. Le anticipazioni giornalistiche, peraltro fondate su bozze in parte superate, rischiano di essere assolutamente fuorvianti. Ovviamente, senza voler anticipare le decisioni del plenum, che è organo collegiale, tuttavia credo di poter dire che la valutazione che il Consiglio darà sarà una valutazione sostanzialmente positiva, pur in presenza di alcuni rilievi critici, ma le criticità si appuntano in particolare sul regime generale della prescrizione, che non è colpa di questa legge, ma semmai è colpa della Cirielli, e il Consiglio tante volte ha richiamato la necessità di ripensare complessivamente il meccanismo della prescrizione. Ecco, avete sentito, serve così com'è il DDL anticorruzione secondo voi? 349-238-6666. Come avete sentito poco fa, Vietti parla di criticità sul piano della prescrizione. Bisogna cioè riscrivere questa parte dedicata alla prescrizione, cioè la possibilità che certi reati di corruzione anche abbastanza gravi possano essere prescritti, oppure va mantenuto così com'è. Un problema che non è di questa legge, ha detto poco fa il vicepresidente del CSM, ma è di carattere generale. 349-238-666, non so se abbiamo già Maurizio Carbone in linea, che è segretario dell'Associazione Nazionale Magistrati. Buongiorno Carbone. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Resti con noi, sentiamo quello che ci racconta Valeria De Rosa in diretta. Sì, buongiorno a te Daniele e a tutti i nostri ascoltatori. Allora, intanto riassumiamo un po' i punti che sarebbero stati criticati dal CSM, anche se poi abbiamo sentito il vicepresidente Vietti che ha un po' ridimensionato le critiche, ma che in realtà erano emersi anche da altre parti. Prima di tutto il punto più contestato è la concussione, perché allo stato attuale nel codice è prevista una sola ipotesi, con una reclusione, la possibilità della reclusione da 4 a 12 anni e 15 anni di prescrizione. Con la legge invece ce ne saranno di due tipi: la prima per costrizione, con la stessa prescrizione e più o meno la stessa possibilità di pena; la seconda invece per induzione, pene tra i 3 e gli 8 anni e una prescrizione più breve, 10 anni. Tra l'altro viene messo in evidenza non solo dal CSM ma da molti magistrati che questo è il reato, l'ipotesi più diffusa di concussione. All'interno di questa fattispecie viene criticata anche un'altra scelta, quella di punire anche la vittima della concussione per induzione. E poi altri punti che sono stati contestati: i nuovi reati, il traffico di influenze e la corruzione tra privati, sì bene, ma le pene molto basse ne riducono di molto l'utilità. E poi per quanto riguarda la corruzione tra privati, questa si può perseguire solo dietro querela di parte offesa. E soprattutto viene molto criticata la scelta di non contemplare nulla nel DDL anticorruzione per quel che riguarda il falso in bilancio e il reato di autoriciclaggio. Allora, abbiamo chiesto proprio qualche minuto fa a uno dei due relatori, il senatore del PDL Alberto Balboni, di rispondere su questi temi, a partire proprio dalla concussione. Sentiamolo. La concussione per induzione, essendo punita meno gravemente, ovviamente adesso lei sa che la prescrizione viene calcolata sul massimo della pena aumentata del 20%, del 30%, del 50%, secondo se è contestata o meno la recidiva e il tipo di recidiva contestata. Certo, però diciamo che i magistrati dicono anche che il reato di concussione per induzione è quello che si verifica più spesso. Lo so, però noi abbiamo recepito delle indicazioni che ci venivano anche dall'Europa, cioè ci sono delle convenzioni internazionali che ci inducono a distinguere la concussione per costrizione dalla concussione per induzione. Non è una scelta, diciamo, del tutto spontanea del legislatore italiano, è una scelta che è venuta da sollecitazioni di convenzioni internazionali su questi reati, perché è così in tutto il mondo. Senta, senatore, all'interno di questa stessa fattispecie viene criticata anche un'altra scelta, che è quella di punire anche la vittima della concussione per induzione. Io sono d'accordo con lei su questo, sono d'accordissimo con lei. Infatti erano stati presentati alcuni emendamenti, ai quali io avevo dato anche parere favorevole in commissione, che prevedevano che qualora la vittima, prima che si aprisse il procedimento penale, si autodenunciasse sostanzialmente dando indicazioni per reprimere il reato, per sequestrare eventuali profitti illeciti e quant'altro, in questo caso c'era una causa di non punibilità, quindi la persona che oggetto di costrizione o di induzione poteva cioè il soggetto di costrizione non è mai punito, il soggetto indotto poteva escludere la propria punizione collaborando con la giustizia a individuare il responsabile del reato. Però il governo ha dato parere contrario e quindi la commissione, seppur con qualche voto solo di scarto, ha respinto questi emendamenti. E per quel che riguarda il falso in bilancio e l'autoriciclaggio, anche questi sono punti piuttosto criticati di questo disegno di legge? No, non erano inseriti nel disegno di legge questi punti. Proprio per quello? Questi erano emendamenti proposti da alcune forze politiche, ma anche su questi il governo ha dato parere contrario. Serve dunque, secondo voi, il DDL anticorruzione? E molti sono gli sms al 349-238-6666. Adesso il conto da pagare per chi corrompe sarà più salato, bisognerà pagare anche il garante comunale. C'è chi, come Claudio, dice che tutto questo si commenta da solo perché l'ENSE conferma che tutti sono corrotti, che l'unico modo per ridurre la corruzione è, secondo un nostro ascoltatore, ridurre l'intervento dello Stato in economia. C'è chi ci ricorda che Repubblica, secondo un nostro ascoltatore, un giornale fazioso e di sinistra, non è un Vangelo, o che i partiti si stanno scavando la fossa pensando ancora una volta di prendere in giro i cittadini con la legge anticorruzione. Come sempre moltissimi sono i vostri sms. Allora, Carbone, Maurizio, segretario della ANM, che idea si è fatto di quello che ha ascoltato da CSM, che secondo Repubblica criticava duramente il DDL anticorruzione, poi alla fine lo approverà? Ma guardi, ora vedremo. Repubblica ha fatto delle prime indiscrezioni, ma devo dire lo stesso vicepresidente Vietti ha comunque confermato che in quello che sarà evidentemente il parere definitivi ufficiali verranno evidenziate alcune evidenti criticità di questo disegno di legge, che devo dire noi dell'Associazione Nazionale Magistrati da tempo stiamo segnalando, e devo dire che il problema maggiore che è stato anche evidenziato negli interventi precedenti è sicuramente oggi in Italia quello della prescrizione, e quindi se non si opera una riforma del regime delle prescrizioni così come adesso, la lotta alla corruzione, nonostante questo disegno di legge, diventa una vera e propria corsa ostacoli, una corsa contro il tempo, che noi magistrati che ci occupiamo di questa materia sappiamo che troppo spesso è una corsa già persa in partenza, il perché impedisce di giungere all'accertamento della verità di reati gravissimi, con la contraddizione che proprio per questi reati, il cui accertamento è così importante ma anche così difficile e problematico, l'intervento che è noto della ex Cirielli ha dimezzato i termini di prescrizione, rendendo appunto quasi impossibile in alcuni casi giungere a una sentenza definitiva, quindi dopo 3 gradi di giudizio. Questo disegno di legge non incide sul regime delle prescrizioni, si dice spesso, ho sentito anche in quegli interventi precedenti, che ce lo dice l'Europa, ma l'Europa tra le tante cose ci diceva anche di prevedere nel nostro ordinamento un regime delle prescrizioni che assicurasse la possibilità di arrivare all'accertamento della verità, e questo al momento non è stato fatto con questo disegno di legge. Grazie Maurizio, grazie Maurizio. Lo ribadiremo. Sì, grazie il segretario della ANM, c'è un ascoltatore che dice se siamo andati a scuola dei magistrati. Voglio concludere che probabilmente sì, almeno io personalmente sono andato a scuola di un grande magistrato, si chiamava Emilio Alessandrini, ed è stato ucciso nel 1980 dai terroristi di prima linea, e diciamo che me ne vanto abbastanza di aver conosciuto anche magistrati molto in gamba, molto bravi, che continuano a lavorare in silenzio nella lotta contro le mafie, contro le legalità e contro la corruzione. Ci sentiamo lunedì, vi ricordo Facebook, il gruppo e la pagina e la mail controluce@radio24.it.